dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! Siamo tornati qui, Andrea ancora sistema le cuffie, di nuovo mercoledì, oggi è il 29 agosto e Andrea ha sistemato le cuffie. Ciao Andrea. Ciao a tutti, benvenuti di nuovo a questa nuova puntata del mercoledì, adesso invece in onda. Sì, adesso invece facciamo l'ingresso, Brumma, scusami, ciao, salutiamo Brumma, il nostro regista. Come l'avrebbe fatto Andrea? E benvenuti come ogni mercoledì, eccoci qua, il tempo sulla Sicilia è sereno, variabile. Ma cioè, non è vero, la temperatura, ma io non sono... fuori è di meno 15 gradi, ma l'altitudine è di 1500 metri. Sì, ma tra l'altro effetti, tutte le previsioni hanno sbagliato clamorosamente. Oddio, però non è che parlassero molto di Beatrice in arrivo qui in Sicilia, parlavano diciamo più o meno a mezza Italia. Vabbè, ma non mi immaginavo proprio così. Insomma, così sgarrate. Così sgarrate. Se possiamo dire sgarrate. Non gli veniva il termine italiano, lui se ne esce con uno sgarrato. Lui sgarrate, può fare ciò ma che sgarrate vuole. È bellissimo, sì, dai, sì, ragazzi. Cioè, facciamolo in bocca al lupo al nostro regista che oggi ha una semifinale e una, speriamo, finalissima di primo e secondo posto di beach volley all'interno delle Olimpiadi Imerese, evento che viene organizzato da ormai 9-10 anni nella nostra città. E noi gli facciamo in bocca al lupo, tanto perderà, insomma. No, io mi auguro di no. Però. Perderai tu. Ma no, il nostro regista è bravissimo. Ma lui non gioca a nessuno sport, quindi non può perdere. Va bene, diamo i contatti. Sì, assolutamente, ci trovate su internet all'indirizzo facebook.com/londainonda con la L, e invece su Twitter a twitter.com/ondainonda senza la L. Regista, oggi funzionano gli SMS? Ma sì, penso che funzioni. Perché al toto c'è qualche problema. Noi diamo il numero degli SMS, il 380 76 90 204. Diamo anche quello di Alessandro, 389. E il resto lo provate voi. Avete solo 2 miliardi di combinazioni possibili. Ma come direbbe il buon Andrea, non possiamo far altro che lanciare la nostra sigla. Yeah. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, clap, iodo, ciappiamo, se va, yamai! 1, 2, 3, 4! Noi siamo i giovani. Ed eccoci qua, infatti, mercoledì 29 agosto, c'è ancora un gran caldo e noi siamo qui per tenervi compagnia anche quest'oggi. Andrea, che hai fatto in questa settimana di fondamentale per l'umanità? Io ho dormito, mentre tu stavi cercando di distruggere il tuo computer. Tra l'altro il mio, perché tu col mouse occupi un po' di spazio che andrebbe al mio PC. Vabbè, non ti preoccupare. Ma è che dovete stare vicini vicini. Sì, sì, sì, tanto, sì, tanto vicini. Non eravamo mai stati così tanto vicini. Con questa temperatura gelida, guarda. Sì, c'è bisogno di calore umano. Cioè, guarda, lui ha una maglietta praticamente trasparente e l'aria condizionata. Non è maglietta normale. Non una maglietta trasparente, sembro poi tipo un trans. Cioè, sì. Ma intanto cosa c'è disegnato? Johnny Depp che caga, cos'è? No, Johnny Depp e basta. Ma la testa è molto più grande del normale. Tra l'altro, con queste righe della maglietta sembra deforme. Esatto, cioè, ma guarda, a parte che è deforme perché la testa sembra sproporzionata rispetto al corpo piccolo piccolo. È il pettorale. Ah, ma smettila, che pettorale. Ma stai zitto, guarda come si crea le fan, sì, per la partita, certo, a pallavolo. Ma vergognati. Va bene, allora, oggi abbiamo un po' di novità, in senso intervistiamo, l'hai visto che ce l'ho fatta? Ho iniziato malissimo, ma e poi... Prova a continuare una volta. Io volevo non dirlo. Tu, vabbè, se lo dice lui, lo dice lui. Sì, perché ho visto

della corona, tutto nudo. Sì. La regina ha detto non pubblicate le foto. Il San ha detto un cacuomo. Proprio ha risposto così, un cacuomo. Che in English si dice Yeah. Non lo so. Come si dice in cacuomo? Yeah. Endao. Endao. Endao. Perché è un cacuomo. Comunque salutiamo Eleonora, che è venuta a trovarci anche lei. Ciao. Pallavolista. Solo che mentre Alessandro stasera proverà a vincere la semifinale del torneo olimpico di Termini 2012, lei ha già vinto ieri il torneo con altre due ragazze. Ho cercato di dire qualcosa del genere. Benissimo. Va bene, allora abbiamo, credo che sia già in diretta con noi Marco dei Film Brutti, perché sta per partire la sua rubrica, ma prima non possiamo non permettere la sua. Non permettere. Non permettere la sua. No, sigla. Non possiamo permetterla. Non possiamo permetterla. Che c'è, Alessandro? Il regista ci fa segno che non possiamo, che non permetterla. Possiamo permetterla. E perché? Poi ve lo spiego. Vabbè, allora lo spiega. Va bene, allora salutiamo Marco. Ciao Marco. Ciao grandissimi. Hai visto che bella sigla? Beh, spettacolare. Aspetta, che te la faccio live. Il film brutto della settimana. Basta, è accorciata, dai. Accorciata tantissimo. Perfetto. Ciao Marco, come stai? Io benissimo. Poi quando si parla di brutti, sì. ogni altro pensiero se ne va. Certo, ti gasi da morire. Marco, guarda, io ti direi che se vuoi ti annunciamo con la sigla. No, scusami, sento un po' disturbato. Se vuoi ti annunciamo con la sigla subito. Vai alla grande. Vai, sigla. Credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. Adesso mi sa che siamo più pronti. Siamo dai. Più pronti, il computer aveva fatto gli scherzi. Allora Marco. Beh, direi che quest'oggi è necessario introdurre un film del nostro regista preferito, che è Bruno Mattei, che come sapete è stato uno dei più grandi artigiani del film brutto della storia. Era uno che riusciva a fare anche due o tre film nella stessa location con gli stessi attori, riuscendo a tirare fuori tre pellicole da una, insomma. Un grandissimo riciclatore, come nel caso del film di questa sera, che è il mitico Razz, Notte di Terrore. Ma lui era quello di... Aspetta, lui era quello di La vera storia della monaca di Monza? Può darsi. Lui ha fatto un miliardo di film, quindi la sua filmografia. Poi è uno che ha avuto 800 pseudonimi, quindi insomma... Penso non si ricordasse nemmeno lui poi quanti film avesse fatto. Allora, parliamo di questo film che... ripeti il titolo un attimo, Razz? Razz, Notte di Terrore. Ok, quindi ratti, benissimo, si parla esatto, di topi. Esatto, okay. Ratti che sono in assoluto chiaramente i protagonisti della pellicola. La pellicola ha il pregio di unire l'elemento post-atomico a quello, diciamo, del classico genere mostro, diciamo, cioè quando c'è un animale o una moltitudine di animali che minacciano i protagonisti di turno. In questo caso Mattei, sempre accompagnato dal Fido Fragasso, sfrutta le scenografie di Una volta in America di Sergio Leone per girare un post-atomico nel quale abbiamo, diciamo, una banda di reietti che dopo l'olocausto nucleare si sono rifiutati di vivere sottoterra insieme, diciamo, alla parte civile della società, e allora, diciamo, vivacchiano in superficie e raggiungono questo villaggio che sembra promettere cibo e acqua a volontà, ma nasconde appunto questa minaccia di questi razzi che nottetempo cominciano a far fuori uno per uno i protagonisti fino al colpo di scena finale. Beh, il film è chiaramente molto raffazzonato, diciamo i ratti la fanno da padrone, nel senso che molto spesso vengono semplicemente inquadrati così per pienare, diciamo, i vuoti di sceneggiatura, poi diciamo entrano in azione in maniera molto violenta. Nel ma senso sono che... i ratti giganti o sono i ratti normali? No, sono ratti normali, sono ratti normali. Cioè, che proprio così vengono praticamente lanciati addosso ai poveri malcapitati, proprio si vede proprio secchiate di ratti che arrivano addosso ai poveri attori, diciamo, che poi vengono sbranati. Spesso, diciamo, la scena dell'uccisione è omessa per ovvia mancanza, diciamo, di danari per fare le scene più cruente, però ci sono alcune scene veramente meravigliose. Vorrei citare almeno quella della ragazza chiusa nel sacco a pelo con il ratto che entra dentro, diciamo che entra in mezzo alle cosce e esce fuori dalla bocca, diciamo spolpando tutto. E questa diciamo è la scena madre del film. Bellissimo. Esatto, è la scena clou, ma bellissimo. Allora, cioè, questa è proprio l'autopunizione vera e propria. Sì, sì, ragazzo, è molto punitivo, che però diciamo ha delle impennate trash notevoli. Splatter, più che altro. Che diciamo non faranno rimpiangere 80 minuti spesi nella visione, insomma. Poi non esiste non avere il carnet almeno un film di Bruno Mattei, insomma. Ma quindi... tu non ci avevi già parlato di Bruno Mattei, forse per Terminator 2? Esatto, sì, Bruno Mattei diciamo era un specialista anche nel fare i sequel apocrifi, come per esempio Terminator 2 Shaun Dark, che è appunto un sequel apocrifo di Terminator che praticamente ne ricalca più o meno la trama, stiamo sfruttando sì, l'effetto trainante del ambientato titolo. Ambientato a Venezia. A Venezia, esatto. Sì, a Venezia. È un film notevole, magari nelle prossime puntate lo potremo presentare, diciamo... nella sua completezza, insomma. Va bene, allora se in questo weekend insomma volete passare una serata diversa con gli amici, ancora c'è caso, cioè, soprattutto a quelli a cui volete molto molto, molto male. Proponete, restiamo a casa perché vi devo far vedere un gran bel film e vi preparate con Rats, Notte di terrore, un film dell'84 di Bruno Mattei con il buon fido Claudio Fragasso, che abbiamo capito che lo segue in buona parte dei film. Va bene, Marco, sei sempre un grande, ci dai dei grandi consigli. Qui i suicidi sono aumentati notevolmente in Sicilia da quando hai cominciato a consigliare film brutti. Noi ti ringraziamo e ci vediamo, insomma ci ascolteremo, ci sentiremo il prossimo mercoledì. Grazie Marco. Perfetto, grazie a voi. Ciao, e Marco, ragazzi, andrai anche in replica di notte, sappilo. Sì, fantastico. Cominciano, come sì, così è più bello, qualcuno se lo vede di notte e vedi un po' la strizza come gli viene. Esattamente. Ok, grazie Marco. Noi invece ci ascoltiamo Busta Rhymes con We Made It. See, I survived the worst, but my life is glorious. But I know that I leaped every hurdle and I'm so victorious. Take a look, I'm a symbol of greatness. Now you can call me Morpheus. As for securing the win, but to believe I'm so notorious. You know that I've been by my bread, even though we rapping now. We used to live on the strip, even though you see me higher level trapping now. I superseded every one of my little struggles and failure has never ever been an option. You see my paper long like rush hour traffic, and I'm about to take a hood shop and get it. Together we made it. See, we did it. We made it even though we had our backs up against the wall. Come on. Forever we waited. And they told us we were never gonna get it. But we took it on the road. On the road. We were steadily just getting rejected, and it seemed like nothing we could do would ever get us respected. At best we were stressed, at the worst they probably said were pathetic. Had all the pieces to that puzzle, just no way to connect it. I was fighting through every rhyme, tightening up every line, never resting the question if I was out of my mind. It finally came time to do it or let it die, so we put the chips on the table and told them to let it ride. Sing it, yeah. Together we made it. Did it. We made it even though we had our backs up against the wall. Come on. Forever we waited. And they told us we were never gonna get it. But we took it on the road. On the road. In case you misunderstand exactly what I'm building, things that I can leave for my children. Now on my wake up I smile to see how far I've come, yeah. Fighting for sales on a strip to a gate to hustle from, yeah. From nights in jail on a bench using my muscle, son, yeah. To counting money like Dre and Jimmy and Russell once, yeah. But now I live when I dream. You see we finally did it, oh. Let's make a toast to the hustle regardless how you get it. Sing it. Together we made it. See, we did it, did it. We made it even though we had our backs up against the wall. Come on. Forever we waited. And they told us we were never gonna get it. But we took it on the road. On the road. On the road. In the presence to this big and instrumental. Bene, rientriamo e siamo in chiusura, ma non possiamo non tornare sul caso umano. L'altra volta l'abbiamo presentato. Anche perché dobbiamo sapere se qualche teatro sì, lo sì, accetta. Sì, l'ho preso. E lui è un ex cantante lirico. Ex, tutti gli ex noi abbiamo. Gli ex. Sì. Ex casi umani. Ex medici. Però a me diverte di più Tony. Lui è triste perché ha questo problema. No? Lui non riesce a non parlare cantando come un cantante lirico. Lo presentiamo, è Tom Di Petto. Ciao Tom. Sì. Ciao Tom, benvenuto, come stai? Bene. Ma tu, abbiamo capito che parli sempre così? Sì. Sempre? Non ce la faccio in altro modo. Allora, l'altra volta è stato qui ospite nella nostra puntata e ci ha fatto un appello a qualche teatro per assumerti, no? Sì. Com'è andata? Qualcuno ti ha chiamato? Una merda. Credo di aver capito che non ti ha chiamato nessuno. Mi ha chiamato uno per uno scherzo di cattivo gusto. Ah sì? Che ti hanno detto? Condoglianze. Ah certo, perché l'altra volta tu avevi parlato delle condoglianze. Senti, ma dove sei stato? Cosa hai fatto quindi in questi giorni che non sei stato qui con noi? Sono stato a Malta e dintorni. Ah, Malta, la sì. famosa Repubblica sì. Indipendente. Dimmi tutto, com'è stato a Malta? Bella. Basta. Certo, sì, dimenticavo lui ogni tanto. C'hai sono le classiche risate finte del teatro. Sono andato al casinò. Al casinò. Ed era un casinò senza l'accento certo. sulla O. Hai giocato, hai vinto qualcosa al casinò? Sì. Cosa hai vinto? Il biglietto d'ingresso. Come? Ma non è una vincita. Ah, allora l'ho devi pagato, pagarlo. Sì. Hai giocato a qualcosa? Sì, alle slot machine. Sì, alle slot machine. Ho perso tutto. Non hai fatto tipo blackjack o qualcosa? No. No. Ero solo black, non trovavo Jack. Capisco, sei anche molto simpatico, caro Tom. Ma sei stato in qualche posto particolare lì a Malta? Ho avuto dei problemi. Sì? Guarda caso, che problemi hai avuto? Sono stato nell'isola del silenzio. Nell'isola del silenzio? Medina. Medina? Sì. Si chiama così l'isola del... Non lo sapevo. Ma scusami, l'isola del silenzio, immagino che nessuno possa parlare. Ovviamente. Quindi tu, anche se dovevi chiedere mi scusi, mi passi l'olio. Non parlavo. Tutto filo liscio per le prime ore, ma poi... Poi? Sentì un bambino ridacchiare. Ha ha. Così faceva il bambino. Esatto. Con questa voce poi faceva questa il bambino. Questa voce il bambino. Cosa succede? Era un po' più fina. Ha ha ha. Ah, capisco. E cosa è successo poi? Non mi potei trattenere come Roger Rabbit quando dicevano ammazza la vecchia. Col flick. Esatto. Sì. Se io sento ha ha, rispondo ha ha. Ah, cioè al bambino? Sì. E il bambino si è spaventato. Io ho fatto le mesh. Sì, e quindi le mesh ai capelli con l'acuto barito. Sì, io rompo cristalli e faccio mesh. Mi hanno calciato via dall'isola. Povera. Mi hanno messo sul primo traghetto e sono tornato a Malta. E mentre ero sul traghetto cosa cantava? Mia moglie mi ha fatto le corna a Medina. Ah, cantava così. No, non pianga. Questo pianto finto da teatro. Sì. Mi rifaccio una risata. Hai visto, è sempre così. Senta, ma lei quindi... Quindi rompe bicchieri e fa mesh. Perché non prova in qualche parrucchieria, no? Potrebbe avere... E se il parrucchiere ha dei bicchieri? Già, questo è un problema. Escono i bicchieri e io faccio mesh. Giusto. Vabbè, fa mesh in una stanza senza bicchieri, no? Certo. Basta. Sembra che un romanzo di Kafka, la stanza senza bicchieri. E con le mesh. E con le mesh. Insomma, vuole fare un altro appello per, certo. per qualche teatro? Lei vuole certo, fa... certo, magari vado. Provi a fare, che ne so, faccio un appello per fare l'idraulico. Va bene, Abramo. Abate. No, non l'appello. Ah, pensavo un quello suo scolastico. Appello. Sì, che risate, caro Tom. Un appello per farsi assumere, che ne so, non provi più nei teatri, provi per farsi assumere come idraulico. Vorrei sì. riparare rubinetti. Sì. Per voi canterò e la mattinata lieterò. No. E se infine vorrete io, zazam, vi trombo. No, no, no, no, no. Vabbè, l'idraulico è famoso. No, ma l'idraulico è una leggenda metropolitana, caro Tom. Sì. Guardi, allora... Chiedi a tua moglie. Una leggenda. Chiedi a tua moglie. Ma io non sono sposato. Avrò fidanzata. Vabbè. A me ha detto che eravate sposati. Addirittura. Capisco, caro Tom. Va bene, allora, l'appello è fatto. Vediamo la prossima settimana se Tom ci porterà delle novità. Io direi di ascoltarci subito il prossimo pezzo e poi ritorniamo per i saluti. Salutiamo Tom, vuoi fare l'ultimo saluto veloce al nostro pubblico? Siete migliori del mondo! Mamma mia, fa veramente schifo. Caro Tom, spero che trovi un lavoro così non viene più a rompere qui in radio. Andiamo col prossimo pezzo, gli Aerosmith con Legendary Child. Siamo ascoltati gli Aerosmith con Legendary Child, come direbbe il buon Andrea, che al momento si sta rilassando perché è stata una giornata molto faticosa per lui. Ha litigato parecchie volte con la lingua italiana e noi quindi lo vogliamo ricordare. È vero, la lingua italiana che ha litigato con me. Ma questa cosa, insomma, dei punti di vista. Senti, mancano veramente pochissimi minuti ai saluti e noi vogliamo ricordarvi che la prossima settimana verrà a trovarci. Sì, un appuntamento importante. Importante, con un politico sardo, anche Leonora attisa le orecchie. Attisa? Sì. Ormai oggi va passa tutto, cioè non tutto, è un problema. Tutto, la dimode siciliana. Attisa, traduzione. Attenzione, abbiamo sentito fuori microfono non era previsto un "ma poi parla Andrea". Questo sarà il nuovo slogan di L'Onda in Onda, "ma poi parla Andrea", perché prima ci siamo io Antonio e Alessandro, siamo in tre, c'è anche il mio alter ego, io Panzica e Alessandro, e poi arriva Andrea e niente, e alla fine arriva Polly, ovviamente Anna. Pollyanna, no. Polly. È bello che l'ha anche ripetuta. Pollyanna, c'è forse Anna. Perché ha detto già Polly, e già capiva che non si rideva. Poi ha detto Pollyanna. Può essere, può dai, essere, può essere. E allora, prossima settimana, un politico sardo. Vuoi dire tu come si chiama? Sì, il politico è un... Di nome Tommaso, di nome Tommaso. Tommaso, ovviamente, l'illustrissimo senatore Tommaso Cazzumoru. Che non è una parolaccia, ma è il suo vero cognome. E ci verrà a trovare. Non... Verrà ovviamente accompagnato dal suo traduttore ufficiale. Ah sì, sì, sì. Non potremmo, non mi ricordo il nome del traduttore, no, ma lo diremo la prossima. Non lo conosciamo ancora. Non sappiamo ancora il nome, lo chiederemo e ve lo comunicheremo ovviamente direttamente mercoledì. Va bene, quindi non perdetevi la prossima puntata. Mercoledì prossimo ne avremo 5 settembre, se la mia memoria calendarica non mi inganna. E poi e poi parla Andrea, come diceva Eleonora. E poi parla Andrea, e poi parla Andrea. Vi diamo i saluti, vi ringraziamo per averci sopportato per un paio d'ore. Soprattutto per aver sopportato la dislessia di Andrea. Salutiamo Vara Menier, che è stata grande protagonista senza saperlo della puntata. Magari la possiamo, la prossima volta intervistiamo la vera Vara Menier. Vara Menier, la chiamiamo Vara Menier. Vara Menier. Chiudiamo con una canzone e te la dedico. Ah, me la dedico. Allora mi dedico Ciara, tra l'altro. Sì, Ciara. Ciara. Quindi, canzone ovviamente sicula. Quindi Ciara featuring Annusa in Turn It Up. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao. Ciao. Stai ascoltando L'Onda in Onda. M.O.P. Andy up in the fucking background. For the real niggas, you know me. Shout to Brooklyn, Queens, Long Island, Staten Island, Uptown, Harlem, the BX. All my real niggas with the 20 inches outside. You know what I mean? Fake niggas, get the fuck out. Now hold on to your shit. You know what I mean? Fun flex. One time for your motherfucking mind. One. Yeah. siamo appena tornati in diretta. Io ringrazio sempre col cuore il mio collega Andrea Massaro qui presente, perché non se ne approfitta mai quando io lascio Facebook aperto e non scrive mai delle cose irripetibili. Stavolta ha detto che non l'ha mai fatto con nessuno. A quanto piare, a quanto pare. A quanto piare, a quanto piare, siamo tornati in ondia. Allora, io invito tutti i radioascoltatori a registrare la puntata e risentire poi Andrea Massaro. A proposito di risentire, dobbiamo annunciarvi una cosa, perché dalla prossima settimana non solo vi sparate le nostre porcate in onda dalle 18.30 alle 20.30 come ogni mercoledì sulle frequenze di Radio Panorama. Dalle 18.30 alle 20.30. Ma anche in replica la sera, non so, ancora adesso non sappiamo l'orario preciso. Non sappiamo l'orario preciso, probabilmente sarà da mezzanotte alle 2, quindi dello stesso mercoledì. Però il giorno ve lo diremo, la prossima puntata ne saprete proprio di più. Ma non dovrebbe essere lo stesso mercoledì? Dovrebbe, vediamo. Perché sai, chi non riesce a segnarsi le ricette di scopelliti per la cena se le segna per il pranzo del giorno dopo, quindi vuole ascoltarci subito. Alle 2 di notte, insomma, ne avrai da lavorare. Cucinare. Radio ascoltatori, fate una cosa, voi a mezzanotte accendete la radio, fino all'indomani mattina la tenete accesa, se... Incocciate si può passare. Posso fare la traduzione di incocciate? Sì, prego. Casualmente incontrare qualcuno per la strada. O qualcosa. Per la strada, certo. Guarda, ciao estintore. Comunque, allora, ridiamo i contatti, perché magari qualcuno si è sintonizzato solo adesso con l'onda in onda. Allora potete contattarci, parlare con noi, interagire, prenderci a male parole su www.facebook.com/londainonda o twitter.com/ondainonda. Salutiamo Roberto, che so che ha gradito molto Tony Scopelliti all'ascolto. Salutiamo anche Roberta, a questo punto anche Roberte, perché dico Roberta. Anche Roberti. Sì, la mamma Roberto. E tutti gli amici all'ascolto. Ma Superman lì c'è sempre. Come si chiama l'amico? Superman, Batman, quello di Cerda. Rambo ci ascolta sempre. Invece per stasera, se non avete nulla da fare, potete correre adesso però subito a Catania. Ma perché dovrebbero correre a Catania se è stata ieri al Castello a Mare? No, a Palermo. Non è vero. È oggi. Intanto vorrei capire perché parli a rallenti come un malato. Perché è oggi. Non a Catania, Nina Zilli. Ma ieri era al Castello a Mare di Palermo. Ma oggi, chi non si è vista ieri, corre a Catania. Correte alle ciminiere di Catania. Però cornuti, 11.50, qui 15. Vabbè, no, Catania sai com'è. Ma qui era il castello, però. Dai, apriamo un incidente diplomatico con Catania. No, perché 11.50, ma non pagano i cavalli. Perché sai che a Catania si mangia molta carne di cavallo, no? Sì. Quindi probabilmente secondo me perché lo suona cavallo dentro le ciminiere. Invece qui era in un castello, come suggerisce il buon Bruma. Non sapevo cosa inventarmi per Catania. Sì, si è capito. La prima cagata. Invece per sabato sera abbiamo invece a Palermo il complesso Mark Yu. Io sapevo che questi nomi dovevo leggerli sempre io. Ma perché non riesci a parlare? Perché stasera ci sono nomi assurdi. Allora, la rassegna Palermo classica, il pianista Mark Yu con la Mediterranea Chamber Orchestra, diretti da, eccolo là, Viktor Bachmann. Viktor o è Viktor? No, Viktor non credo, Viktor. Viktor Bachmann. Ma guarda che Viktor con W si legge Viktor, se no sarebbe con la V normale. Ma in che effetti è come Winnie the Pooh, non si legge Winnie the Pooh. Vabbè, comunque Winnie the Pooh che è inglese con un nome tedesco. Sei un cretino, cioè noi cambieremo regista perché sei un cretino. Lasciamo Giuseppe stare. Lo trovi un altro regista, cioè, apri la porta, vedi chi c'è. Intanto suoneranno pezzi di Beethoven, concerto per non te pianoforte. La sei sentita dire Ludwig van, no, direttamente Beethoven. Esatto, concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in si bemolle maggiore, opera 19. Ah, non è oppure 19. Oppure 19, certo, perché arrivati e dice: oh, Tessa Croce, oggi che suonavo, ma oggi avendo si bemolle 19. O si bemolle o 19. Ouverture. No, ouverture. Le rovine di Atene oppure 103. Perché a questo punto chiamano i carabinieri se non riescono a partire, oppure chiamano i 103. Sinfonia numero 5 in do minore oppure 67. Cioè, quindi andate lì, voi pagate 15 euro nella balconata o c'è la casa, cioè se facciano baicuno e pagano, o dalla platea 15, no, aspetta, 19 dalla platea, 15 euro dalla balconata. Esatto. Arrivate lì e c'è anche la bellezza di non sapere cosa ascolterete. Magari avrete 19, 113 oppure 66. Magari avrete dei telecomandi in mano con per il votare. Sondaggio per A, votare cosa vuoi ascoltare. Bemolle, B, oppure 19. Oppure esatto. 113. Questo, tutto questo al chiostro del complesso monumentale di Sant'Anna. Ovviamente chiediamo scusa a Mark Yu, insomma, per questa boiata. Io mi auguro che parli solo giapponese, così non ha capito nulla. E ma, poi cos'altro abbiamo? Un gelato per Amnesty International. E questo si svolgerà sempre sabato? Praticamente è sempre il gelato per Amnesty International. Sì, no, io fra 30 anni ogni giorno e pretenderò il gelato per Amnesty International. Sì, un giorno qualunque. È sempre lì alla gelateria ai Portici, in via Piazza Armirina 91 a Palermo. Oppure 19, anche lì. Sì, anche lì, oppure 19. O è 91 e 19. Sì, potete alternare. Cambiano i numeri così. Sì. Invece, sempre sabato sera, al Teatro di Verdura a Palermo, Latin Explosion per la rassegna Estate al Verdura, lo spettacolo Latin Explosion con l'orchestra jazz siciliana, solisti Silvio Barbara, Vito Giordano, Salvatore Pizzurra, dirigere l'orchestra Domenico Riina. Oppure ma ci scusiamo con Domenico Riina, ovviamente. Oppure 19, saranno eseguite le musiche di Sandoval, Buzzurro, Tielemans, Piazzolla. Dimmi il nome di Piazzolla. Assonto. Sì, Assonto. Lei è bravo ed è stato Assonto. Sono contento di dirglielo io. Astor Piazzolla. Astor Piazzolla. Quello del famoso Libertango. Ma io sono una merda. Meno male che lo ammette. Scusate se state cenando, però insomma. Alle ore 21:15 oppure 19. Alle ore 21:15. Oppure 19. Diventa anche agrigentino. Ricordiamo che è sempre oppure 19. Sì. 10 euro la platea, 7 euro la gradinata al Teatro di Verdura a Palermo. E niente, ora è un momento importante perché arriva una gran canzone dei Green Day. Non era questo il momento importante, sì, che pensavo? No, il momento importante è questo perché il 20 settembre esce il nuovo album dei Green Day. E questo è il primo singolo che loro hanno lanciato su YouTube. L'hanno caricato. Te lo dedico. Me lo dedici? Kill the DJ. Uccidi il DJ. Me lo dedici. Sì. Unless you someone kill the DJ, the fucking DJ. Someone kill the DJ, the fucking DJ. Someone kill the DJ, the fucking DJ. Voices in my head are saying shoot that fucker down. She's someone killed the DJ. Shoot the fucking DJ. Someone killed the DJ. Shoot the fucking DJ. Someone killed the DJ. Shoot the fucking DJ. Hold him underwater till that motherfucker drowns. Down. Il DJ. Qualcuno ha ucciso il DJ. Green Day, l'album in uscita il 20 settembre, questo è il primo singolo, appunto Uccidi il DJ. E noi ci prepariamo invece, ecco, non uccidetevi, restate sulle sedie, anzi tenetevi forte, allacciatevi alla prima cosa rossa che trovate accanto a voi, perché stiamo per ospitare ancora una volta il grande baluardo del comunismo mondiale, lui che viene da Regalcioffoli in provincia di Rocca Palumba, che ha cambiato nome qualche anno fa da Rocca Palumba che era, lui del collettivo Giancarlo Mattello. Finalmente, mi fa segno che è felice che lo abbia ricordato. Adesso vi dirà lui tutte le novità in fatto di Cineforum e di comunismo. Signore e signori, a voi Fidelio Cusimano. Ciao Fidelio. Buonasera, buonasera a tutti, tutti i comunisti qui di Radio Panorama. Cioè, se ci sono ascoltatori non comunisti, fanno spengono la radio. Spegnete la radio. No, perdiamo ascoltatori. Non è vero. No, restate lì, non ascoltatelo. E lui è un ospite, decidiamo noi. No, allora. Noi siamo per la pluralità, Fidelio. Ma voi siete per la pluralità, a noi non ce ne frega niente. Ma tu sei ospite a casa mia, quindi dovrò anche dettare qualche regola. Allora, io vorrei. Grazie per essertene fregato. Non gli importa. Totalmente. Non me ne frega niente, vorrei dire che appunto sono aperte le iscrizioni al collettivo Giancarlo Mattello con la riapertura della stagione universitaria 2012-2013 o 2013-2014, effettivamente non lo so, perché tanto sono fuori corso da 9 anni. A 9 anni? E come ancora ti tengono? Non dovresti essere ormai decaduto? No, come status di studente. Allora, io ovviamente avrei potuto laurearmi, mancano però, soltanto 2 materie. Però tra l'altro una è cinematografia borghese. Come borghese? Sì, si studia anche quello, ma no? Mi scusi, ecco, io non gliel'ho mai chiesto, ma al di là dei film che proiettate voi, che film borghese ha visto in vita sua? Ma guardi, ho visto Space Jam quando ero bambino. Poi? Poi sono diventato comunista. Cioè, ma non ne ha visto è stato Space Ma non Jam. Ne ha visti due? Non ne ha visti due? No. Uno solo? Solo uno. Space Jam? Basta. Michael Jordan, i cartoni animati? Sì, questi cartoni cioè, animati. Cioè, lei non ha mai visto, che so, Apocalypse Now? No. No. Mai visto, anche perché noi siamo contro le guerre del Vietnam. Gola profonda? Vorrei dica parlare un'altra occasione. Okay. Di questo magari film. Nella replica notturna nella aggiungiamo replica una postilla. Notturna, aggiungeremo la cinematografia borghese di Gola profonda. Al di là di tutto questo, sì, parte dica. Che insomma Gola profonda era anche il personaggio che informava i giornalisti del Washington Post nello scandalo Watergate. E questa cosa ci riempie di orgoglio. Hai capito? Hai capito. Vedere anche l'America che Fidelio. Cerca di sconfiggere Nixon. Però insomma poi è diventata quella che e il collettivo Giancarlo Mattello non è riuscito ancora a conquistare l'America, ma noi abbiamo conquistato il regalo e siamo contenti. È un buon punto di partenza. Allora vorrei dire che questa sera proiettiamo un bellissimo film al Cineforum. Voi date sempre gli appuntamenti che ci sono a Palermo, ma non dite mai quello che c'è al regalo cioffoli. Capisco che è uno stato a parte, però venite anche al regalo cioffoli del nostro Cineforum. Noi questa sera proietteremo un bellissimo, bellissimo film di una regista. Finalmente una regista, l'abbiamo finalmente con noi. Una donna. Sì, finalmente una donna. È Vara Menier. Sì. Un film di Vara Menier. Un film di Vara Menier. Pazzesco. Bellissimo. Si chiama... I brividi. Il mio regista ha i brividi. Guardate, un bellissimo film. La particolarità di questo film è che si vede capovolto. Cioè è come capovolto? Nel senso, no, non le persone stanno normali, ma l'inquadratura è capovolta. O se volete vi appendete al tetto. Ma io penso che però ci devono farlo tutti, perché non possiamo fare 2 sale di regalcioffoli. Uno appeso al contrario col film dritto e uno dritto col, al contrario. Appeso ma no. Mi scusi la domanda, cioè è lecita, ma ancora ancora c'è un gran caldo, ma se lei vuole appendere le persone al contrario vuol dire che già vi siete spostati nelle sale al chiuso. Noi non siamo mai andati all'aperto, solo una volta in realtà abbiamo inventato questa arena e poi basta, abbiamo l'avete chiusa perché, sì, non si poteva stare veramente, c'è troppo caldo, troppo caldo, sì. Allora, le zanzare poi di mangiare, Caronte, Lucifero, sì, guarda, veramente tutte queste cose rosse, in effetti a noi ci piaceva, però abbiamo detto Lucifero rosso comunista, però niente, non ci abbiamo fatto più niente. Allora il film al contrario si chiama appunto L'esegesi dell'acqua. L'esegesi dell'acqua. Sì, di esatto. Vara Menier. Di Vara Menier. Vara Menier è una regista di che nazionalità? Allora, lei è bulgara. Bulgara. È stata varata appunto dal grande regista criptico. Che era Criptico è proprio il nome del regista. Sì, Pippo Criptico. Ah, il cognome. Sì. Pippo è un nome tipico bulgaro, immagino. Pippo Criptico è stato quello che l'ha scoperta, no? Ah, lui non è bulgaro. No, lui non è bulgaro, è di Canicattì. Ah, era di Canicattì, poveretto, è morto. Ah, pace all'anima sua. Poverino. Sì. Ricordiamo allora il grande Pippo Criptico. Soffre sottoterra sotto una stele di falce e martello. Questo è tutto il titolo del suo ultimo film o un ricordo? No, questo era il ricordo mio. Ah, okay. E del collettivo Giancarlo Mattello. Ora, quello che diciamo l'epitaffio. L'epitaffio, esatto. Quello che vorrei dire è che questo film è bellissimo. L'esegesi dell'acqua praticamente fa vedere questa cascata, no? Sì. Che scende questa, da un fiume. Questa, quale? Una cascata. Ah, ecco, una. Che scende da un fiume. Però la particolarità di questo film è che è visto al contrario. Quindi no? L'acqua risale. L'acqua sembra risalire. Bellissima. È una bellissima metafora della vita. Ma no? Allora non ha senso che la gente si metta al contrario. Lasciate lo schermo al contrario. Infatti, la gente abbiamo detto, se qualcuno preferisce, no, magari vuole vederlo al contrario, però ci deve dirlo prima perché o tutti lo vedono al contrario. Ma starebbe male male dopo tre minuti e vabbè, giù, però. Dico, ognuno c'ha le sue esigenze, metti che tutti dicono ma io lo voglio vedere appeso al contrario. Ovvio, io non posso dire no, cioè, pagano metà biglietto. Ah, ok, in America dico, ci veniamo sono famosi i cinema al contrario, bellissimi. Famososissimi. Sì, ma poi un gran successo, cioè gli ospedali il reverse cinema. Sì, il reverse cinema, dopo esatto, il 3D è la frontiera del terzo millennio. Esatto, comunque questo film noi mettiamo il proiettore al contrario e viene questa bellissima, perché bello. Proprio il film è girato così, però la cosa bella era l'installazione, cioè con la telecamera che la regista Faramini ha pensato, ha detto perché girarlo, girare l'immagine in pellicola, no, invece l'installazione deve essere una cosa che proprio il pubblico vede, che gira proprio la macchina cinepresa, la macchina sì, cinepresa, il proiettore cinematografico, che proiettore quindi cinematografico. Gira proprio la macchina, gira proprio la macchina. E la cascata fa vedere quest'acqua che risale, no, risale in questo risale posso dire, ma lei risale, io non parlo insieme. Risale. Risale. Risale in questo fiume ed è proprio la metafora, una metafora bellissima della vita del comunismo. Il comunismo che appunto scende dalle montagne, no? Scende dalle montagne, va tra la gente, ma in realtà cosa fa? Risale appunto nelle montagne, la sua cultura, l'acqua. L'esegesi dell'acqua. Questo Sam Perro. Vorrei dire ovviamente che è il primo corto di Farah Menier, e, insomma, un bellissimo film, dura solamente 3 ore. Questo è veramente un corto. Una durata onesta, addirittura meno della leggenda del pianista sull'oceano. Sì, noi però abbiamo preso la director's cut. No, sì. Perché? Delle scene tagliate. Ma perché? Andavano bene. C'erano 3 ore. Bellissime scene di un salmone, no? Che risale la cascata, ma lì invece scende, perché il film è al contrario. E quindi lo fottono. Il salmone è appunto il traditore del comunismo, il trotskista che vuole salire al contrario e invece scende. E le scene tagliate del salmone ovviamente sono altre 4 ore. Quindi il film in completo dura 7 ore. Però la versione ufficiale dura solo 3 ore. Il salmone è morto nel frattempo. Ma certo, tagliato, se lo saranno anche mangiato. Ovviamente vorrei dire che abbiamo un minuto e mezzo. Bellissimo film, tutti i film che proiettiamo noi di questo cineforum neorealista sono in bianco e nero. Questo film invece ha la particolarità di essere metà in bianco e nero, metà a colori. Nel senso che una parte del film è bianco e nero e l'altra a colori, o che lo schermo è diviso a metà? Non è proprio diviso a metà, ovviamente è diviso a metà, ma era diviso destra e sinistra a colori, cioè destra a colori, sinistra in bianco e nero, ma visto che è ruotato è tutto al contrario. E perché questa scelta? Ma perché Farah Menier ha detto il mio nome era associato a una conduttrice italiana e si pronuncia al contrario, quindi faccio un film al contrario, tutto al contrario. Abbiamo l'ultimo minuto, voglio fare una domanda che non le ho mai fatto, penso che anche Brumba vorrà saperlo. Sì. Entriamo un po' nella vita privata. Sì, mi dica tutto. A tutto. Ma guardi, non capisco cosa avete. Questa hilarità facile, se la no, Brumba, ti licenzio. Non capisco. Allora, il collettivo sapere... Giancarlo Mottello ci battiamo ogni giorno. Siccome lei c'ha sempre discriminazione. Esatto, per queste voci di merda. Cioè, siccome lei ci ha sempre parlato di registi maschi, sì, per una volta capita Farah Menier. Sì. Lei non è che per caso sì, ha varato la Menier. Ecco. Allora, guardi, noi del collettivo Giancarlo Mattello. Perché no? Io parlo con lei. Perché noi del collettivo Giancarlo Mattello. Insieme, sì. Un'orgia. Esatto, abbiamo fatto una gang, una gang bang. Una gang bang comunista. Comunista, ovviamente, okay. Perché tutto era di tutti. Vara ha cominciato a dire sì, sì, basta. Il suo naso era di Vara. Sì, insomma, guardi, è stata una cosa che vi racconterò sicuramente nella replica notturna. Speriamo che lei smetta presto di essere così strano. Però noi le vogliamo bene così com'è in fondo. E quindi ci ascoltiamo proprio. Più degli articolo 31, domani smetto. E viva la libertà comunista. Sempre. Sempre, sempre. Di non parlare con la bocca piena e camminare dritto bene, retto con la schiena. Di non andare fuori tema e seguire lo schema, pure andare a letto senza cena. Di non creare un problema che non ne vale la pena. Di essere grato di essere nato nel lato del mondo che in fondo è perfetto. Perfetto. Perfetto. Perfetto come te. È una tipica espressione della vocalità, della leggiadria, del canto e all'italiana. Io non so bene quando è cominciato, a un tratto io non lo vedivo più, cara, è come dici tu, davvero. Non so che cosa mi abbia rovinato, ecco ho iniziato a dire troppi no, forse per questo che tu mi hai lasciato, e non ci soffrirò nemmeno un po'. Ma mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio te li chiami domani. Loro mi dicevano di stare sui binari. Loro mi dicevano rispetta questi orari. Loro mi dicevano stai con i piedi a terra. Loro mi dicevano è giusta questa guerra. Mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto. Domani è una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano. Questi erano Le Carte, bellissimo singolo del loro album 100, era proprio 100, la canzone che si intitolava come l'omonimo album. Che il numero viene da... Da che? Cioè, il numero viene da che? Che significa? E il numero che segue, quale altro numero? 99. Cioè? Bravo. Ma che domanda è? Non lo so. Ma va bene, allora siamo rientrati dopo la pubblicità. No, e... io ho un'altra domanda. Sì. Siccome hai detto che si chiama la canzone... 100. Come l'album. Sì. Ovvero omonimo. E sin qui ci siamo. Quindi come si chiamano le canzoni che hanno lo stesso titolo dell'album? Omonime. No, hanno un termine inglese per indicarle. Omonimis. Omonimis. La title track. Cioè, oh, la canzone track. Che porta il titolo. Ah, non lo sapevo. Hai imparato una cosa nuova. Ho imparato una cosa nuovissima. E anche che Giuseppe dietro l'acquario. Anche Giuseppe, mentre sta spalando le capre, ha imparato. Ciao Giuseppe. Sì, lui si farà picchiare dal direttore, sì. Lo so, ne sono sicuro. Va bene, allora Giuseppe intanto fa vedere i gesti della natura. L'agricoltura ci sta insegnando come coltivare la terra. Esatto, sì. Va bene, ridiamo intanto i contatti. Allora, i contatti sono facebook.com/londa in onda. Ricordiamo sempre che Facebook c'ha la L ma Twitter no. Quindi twitter.com/onda in onda. E al telefono abbiamo il piacere di avere Pierre Dei, lo dici tu il nome? Dai, dillo tu. No. Dai, lo dici tu. No, no. Di Guignol. Vabbè. Con il loro album Addio Cane. Ciao, Pierre. Ciao. Come stai? Tutto bene, grazie. Tutto bene. Allora, senti un po', io qui stiamo un po'... A parte aver ascoltato il disco durante il pomeriggio, prima di arrivare qui, stavo un po' leggendo qualcosa su di voi, ma vorrei fare parlare te. Questo cane, chi se l'è sognato? beh, io personalmente. Ah, personalmente? Sì. E il sogno quindi come si svolgeva? Spiegaci un po', perché insomma è un titolo particolare, vogliamo saperne qualcosa. Sai, i sogni sono sempre qualcosa di un po' indefinito, magari. Eh sì, quello sì. Sono sempre così facilmente riconoscibili. Era un cane parlante, diciamo così. Ah, ok. Probabilmente qualcosa che avevo visto. Ma qualcuno di voi possiede un cane o è soltanto un sogno estemporaneo, così? Mio padre ne possiede uno molto simile a quello della copertina. Probabilmente mi riferivo a lui, non so se... Poi effettivamente così o è qualcosa di o qualcun altro simile a lui, però ho capito. Probabilmente è stato frutto di questa visione così onirica. Ho però capito. Allo stesso tempo mi serviva anche un titolo che suonasse bene. Quindi allora Pier, anche per quello. Parlaci un attimo di prima di tutto il nome Guignol da dove viene? Quello è il nome di una marionetta francese. Guignol, non lo sapevo. Ah, neanche io. Sì. ammetto la mia ignoranza. E come mai avete scelto proprio il nome di una marionetta francese per il vostro album? Vabbè, ma questa è una vecchia storia iniziata 12 anni fa, per cui era il titolo di un libro di Céline che si chiamava Guignol Band. Sì. Guignol's Band. Sì. Ci piaceva molto, era un personaggio ideale per, così, per rappresentare tutta una serie di cose. La vostra ispirazione, ho capito. Sì, è un personaggio della cultura popolare, un personaggio di satira, per cui sembrava proprio adatto al nome di un gruppo. Capisco. Parlaci un po' di quest'album, un bel blues suonate, quindi la scelta di un blues in Italia è ancora vista, diciamo, marginalmente rispetto alle produzioni che si ascoltano ogni giorno. Come mai proprio sì. La scelta di questo blues e il lavoro del vostro ultimo album, come è nato? Il lavoro di questo disco è nato praticamente parallelamente al tour che facevamo di quello precedente. Qui diciamo nelle pause tra una data e l'altra, nei mesi antecedenti, avevo scritto un tot di pezzi e hanno preso forma abbastanza rapidamente rispetto a quelli del passato, che sono stati un po' più diciamo un po' più macchinosi, un po' più pensati. Esatto. Cioè, questo è stato, credo, il disco probabilmente più immediato che abbiamo mai realizzato tra tutti. Anche se i pezzi, diciamo, che non sono quelli, i classici pezzi che uno dice li ascolti e già non te li scordi più all'inizio, cioè ti entrano dentro poco a poco, non sono pezzi immediati. Vero, questo è vero, però questo mediamente è un po' l'approccio nostro a tutte le cose, un sì. po' colpa anche del mio modo di scrivere probabilmente. E infatti volevo arrivare proprio eccetera. A questo, cioè se il tuo era uno scopo di arrivare a dei pezzi di questo tipo o ti sono usciti proprio così e buona lì, così come se ti fossero usciti un po' più, diciamo, orecchiabili, avresti lasciato quelli lì. Cioè, questa era una domanda a cui tenevo. Sì, sì, effettivamente, beh, sì, è una lettura abbastanza verosimile. Il fatto è che per me, a me, questi suonano più più immediati di quelli passati. Quindi sono sempre punti di vista, certo. Per questo sono punti di vista, è abbastanza relativo il tutto. Io li ho scritti abbastanza rapidamente questi. E risultano forse non immediatamente fruibili magari, ma vabbè, però alla sono lunga quelli, però sì. Credo si entrino meglio che non altre cose del nostro passato, che erano scritte più in forma narrativa, sì. E in terza persona. Questo invece, come dire, sono messi posti in una forma più diretta, spesso in prima persona, e parlano in modo molto più franco, credo, di tutta una serie di cose, con ovviamente le solite allusioni. Sì. Che generalmente mi stuzzica a scrivere, fare e riprendere, però l'intenzione è questa e credo sia abbastanza ben raggiunta. Poi effettivamente poi spesso mi dicono questa cosa, due o tre ascolti. Sì, sì, vabbè, ma non è per forza un... Io sono dell'idea che alla fine non esiste musica che debba essere offesa, nel senso che se magari è più immediata dice allora è musica da scartare, né musica che per forza deve essere ascoltata secondo alcuni due o tre volte e magari perde d'impatto. Io penso che la musica vada gustata, poi ci sono canzoni che ti entrano dentro più facilmente, altre che hanno bisogno di maturare. E quindi esatto. Penso che sia così. Sono d'accordo, che mi accordo anch'io. Ma senti un po', siccome avete scritto appunto questo disco mentre eravate in tour, quindi immagino in un momento molto, diciamo pure gasante, un momento formativo, un momento che vi ha unito. C'è una canzone che magari ricordi, la colleghi in particolare a una data, a un momento? Sai, poi i concerti possono avere le scalette simili, ma poi magari c'è quella serata che non te la scordi più perché ha avuto un pubblico particolare, perché voi eravate diversi dal solito. C'è una canzone che colleghi a qualcosa in particolare? Magari così quando l'ascolteranno i nostri amici ricorderanno: ah, guarda, questa canzone qui c'è una storia particolare. Ma direi no, tra quelle che abbiamo registrato su questo disco non ce n'è nessuna legata in modo particolare a qualche episodio live che nel frattempo vivevamo in seguito al tour precedente. No, c'è una canzone che un giorno tra i tanti che ho scritto in ufficio durante una giornata di lavoro, questo posso dirlo con assoluta certezza. Cioè, parallelamente alla mia attività di lavoro avevo buttato giù due o tre strofe di questo brano che poi è finito subito dentro l'album. Le altre cose no, in realtà no, le scrivevo durante le pause, cioè a ridosso del tour, tra una pausa rientrando, tra una pausa e l'altra, ecco, rientrando dalle trasferte spesso mi capitava di fermarmi che sono la sera tardi diciamo che è stato un momento particolarmente prolifico, dentro questo. Ho capito. Senti, due domande. L'adrenalina dei... Due domande importanti. Siete in tour al momento? Al momento c'è una, siamo ancora in una pausa estiva, diciamo che si sta protraendo un po' troppo. Comunque adesso riprendiamo subito da fine settembre e partiamo subito in tour, sì. Perfetto. E per il futuro non avete al momento in mente, non so, qualche progetto in particolare, una, un album nuovo, avete idea di quando potrà uscire? Diciamo che aspettate che arrivi lui, se posso permettere. Tanto sì, le cose vengono da sé. L'abbiamo imparata col tempo. La penso esattamente come te. Va bene, allora ringraziamo Pierre dei Guignol, grazie per essere stato con noi a Radio Panorama, all'Onda in Onda, e adesso ci ascoltiamo, Andrea, l'annunci tu, il blues del buco. Ciao e grazie. Grazie a voi, ciao. Bene, rientriamo, erano i Guignol con il loro blues del buco e ora non possiamo non... Ma diciamo, come stai tu, Andrea? Io sto bene, sì, no, fuori onda ho fatto un po' di follia. No, perché? No, a me sembravi normale. No, ma forse Bruma vuole dire se eravamo contenti dell'intervista, no, io molto. Sì, okay. Sì, no, allora io vorrei fargli un'intervista con Alex, se ve lo ricordate. Ma di quale gruppo era Alex? Quelle dei Ubuntu, forse. No. Linux, forse. Un altro. Linux. La coperta di Linux. Controlleremo. Va bene, allora, dicevo, non possiamo non rientrare dando qualche consiglio enogastronomico. No, è il suo momento. Allora vado a chiamarlo. È quasi ora. Sta bussando, vado ad aprirlo. Apri. È quasi ora ad di aprirlo, cosa, un chirurgo. Posso? Grazie. È quasi ora di cena, quindi dico: preparate voi che siete a casa, state preparando la cena, se non per questa sera, per domani sera, ma cominciate a raccogliere gli ingredienti per la cena, la vostra cena o il vostro pranzo. Vedremo cosa ci dirà il grande Tony. Per insomma una ricetta tipica calabrese. Ma chi è Tony? Per chi ancora non lo conoscesse, lo presentiamo. Lui è un ex medico nutrizionista cacciato dall'ordine per aver ucciso un malato di ipertensione con l'anduia calabrese, troppo piccante evidentemente, e da allora è stato cacciato. Quindi lui, per espiare la sua pena, per lavare l'onta, come mi piace dire a me, lui gira per le radio d'Italia dando ricette della cucina della cucina tipica calabrese. Quindi non possiamo non averlo oggi in radio con noi, e lui è Tony Scopelliti. Buonasera Tony Scopelliti, come stiamo? Ehi, scappellotto. No, non c'è lo scappellotto. No, non c'è lo schiaffettone, caro Tony. Oggi ne facciamo schiaffettone. Non ne facciamo, deve dirci lei cosa fa. Salute a tutto il mondo. Saluti. Voglio salutare pure Giuseppe Rerello all'acquario. Pare un pesce palla. E come pare adatto. Ma quindi oggi una ricetta di pesce? Ma insomma, io volente volevo dare, sì, una ricetta di pesce, ci sto. Sì, non lo so. Ma lo dice lei. Ti dico camaccollo. Ah, lei dice casaccolla. Io m'accollo. Ho capito. Allora, caro Tony, intanto dove è stato prima di venire qua? Ma io sono stato in vacanza a Lampedusa. A Lampedusa. All'isola dei conigli. Sì. Ho capito. Ora si chiama solo isola. Solo isola. Perché i conigli l'ha messa tutti per cucirli. E che ricetta ha fatta? Fatto. Vabbè, lei è l'amico di Vara Menier, vero? Lo senti a radio, Antonio. Vara Menier. Sì, Vara Menier. Niente, che fece un bello coniglio alla cacciatora, però alla versione calabre. Sì, quindi cosa c'era dentro? No, chissà, c'è di qua prossima settimana. Ah, questa è la prossima settimana, ho capito, sì. va bene. Perché ancora devo provarla meglio, perché c'è mia moglie che morì. Come è morta? Cioè, è in coma. Ma come in coma? Lui è contento poi, capito? No, senso, ride. Vabbè, meglio che è morta. Un bello che dice, meno male che è in coma. Come se sento. Come è morta? Ma lei è contento con sua moglie in coma. Non è che sono contento di essere a radio, poi quando torno a casa l'assisto. Ah, ho capito, lei ha questi momenti di, sì, di doppia, sì, personalità. Mi devo sparare, ma sbagliare. Va bene, allora oggi ricetta di pesce. Che sì. Pesce? Quindi cos'è, un primo, un secondo, un terzo, tutto. Una cena? Cos'è? Questo è quel famoso pesce della notiziona di tempo fa. Quella del quiz, è vero, che tu attacca su un blau. Non lo so, se non lo sa lei, il mio regista lo sa, gli avrà dato la scaletta, ma io non so che ricetta deve fare. Ci fu una casa in velau, stupisce. Questo pesce, ma quindi sta parlando del capitone. Il brodetto del capitone. È il capitone. Che è la prima volta in 4 anni che leggo una ricetta che si capisce perché è italiano. Brodetto di capitone, cioè, interessante. No, però se poi la posso dire in calabrese. No. Un brodetto di scretto. No. Un brodetto di scretto. Non credo che sia questa. Io credo che sì. Allora se lo sta inventando. Allora, quando siamo 4, stasera voglio cucinare per voi. Quindi la cucina, ricetta è per 4 persone. 4 persone, sì. Vediamo gli ingredienti. Aspetta, quindi mi raccomando un attimo, diciamo. Però intanto aspetta che metto a soffriggere. No, lei non sta. Ma sta fingendo, Tony. Non può soffriggere in radio. La smetta, per favore. Ma è lei che lo fa con la bocca. No? Non faccia male informazioni. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori di prendere carta e penna per gli ingredienti, esatto, della ricetta. Mi raccomando, carta e penna. Pronti? Se siete dotati anche carta e penna, io stesso. Certo, perché parliamo di pesce. Ovviamente. Allora, partiamo. Dunque, ci vuole ovviamente un bello pezzo di peperoncino calabro, che deve essere quando una stanza. No, ma di nuovo una ricetta pepata. Sì, però non proprio pepatissima. Una via di mezzo. Una via di mezzo, sì. Poi ci vuole una bella cipolla, sono quelle particolari ritropea che le modificate geneticamente. Cioè 80 kg di cipolla per 4 cristiani. Ma non è possibile. L'importante è che lei non alita. 20 kg a testa. Sì, non alita su nessuno per cigliorna. Certo, vabbè. Insomma, i vizi della. Poi 3 kg di olio extravergine d'oliva. Ma che sto dicendo? Non lo so. 3 kg di olio extravergine d'oliva. Sì, 3 kg. Sì. Certo. Extravergine, dico. Al giorno d'oggi non è che si trovano tante vergini, certo, però forse sull'olio andiamo a colpo sicuro. Esatto. Poi sale. E chi scende? Mia madre. Ah, sua madre scende, ho capito. Ovviamente, se qualcuno è chiaro. Poi ci vanno. Ma perché proprio? Non ho mai visto una unità di misura in grammi. Comunque, facciamo finta: 500 grammi di vino bianco secco. E perché il vino si misura in grammi? Non sapevo né che si misurava in grammi, né ma che era. Io la G sta per giarre. Quindi 100 giarre, che è pure vicino Catania. Ma la ricetta è sua, com'è che non sa leggere la sua ricetta? Ma perché io sogno senza occhiali? Aspetta, capisco. Che mi metto. Meno male che ora leggi meglio. Che regista, insomma, sa. Allora, 100 giarre di vino bianco secco. Quindi non picchiate che tu bello, sai, che tu panzuto. No, la bottiglia lunga. Bravo. Poi ci vuole uno sticchio d'aglio. Cosa? Uno spicchio d'occhio. No. Ah, ero senza occhiale. Uno spicchio d'occhio. Sì, perfetto. Sì, sì. Poi ci vanno 400 giare. No, chissà su grammi. No, chila. 400 chila di polpa di pomodoro fresco. Solo la polpa. Ma sì. 400 chili. Bisogna scuoiare tonnellate di pomodoro. Tu la cercare, capitone. Cioè, il bello che tu c'è te c'è a tuffare. Ci non trovai e tu mangi. Con tutti se... questi ingredienti. Sì, perché ma se tu trovi già tutti prendono questi per un solo capitone. Quindi no, è un contorno il capitone. Non siamo arrivati ancora. Ah, non siamo arrivati no, al capitone. Ancora non è capitato il capitone. Ma capita. Comunque, poi ci vuole ovviamente un bello toast, bello grande. Sì. Sì. Tipo una tavola di 8 cristiane. Un toast, vabbè, quello si vede al Guinness, insomma. Potete sì, andare, è una ricetta che potete fare solo in quelle occasioni. Ovviamente, e partecipare anche al Guinness. Certo. Poi ci vanno un chilo di acqua e aceto. Sì. Diviso in 800 grammi e 200 grammi. Timo, tiroide e faringe. Cosa? Ah no, perché dicendo? Il timo è una ghiandola che resta fino ai 15 anni che io sogno ex mede, come ah, lo guardare. Già, è vero. No, il timo nel senso di aroma. Lauro, che è il cugino di Laura, e Origano, che è il cugino di Silvia Origano, che è una sua amica, immagino, non so chi sia. Vabbè, ah, una mia amica calabrese. Certo. Poi ci vanno 7 capitone. 7 capitone. Sì, tutta perché si dice che porta male mangiare meno di 7. E adesso il numero dispari, quindi ma i capitoni vengono 9. Mangiati, non mangiano. No. Quindi cosa cambia? Chi può dire? Se sono 7 o meno di 7. Non lo so. Ah, la ripeto di nuovo, 7 capitoni. 7 capitoni, 7 capitoni. No, perché magari non l'hanno scritta, un regista è attento a queste cose. Allora, adesso partiamo, è una cosa un po' io cruda. Voglio sottolineare, ovviamente, ai nostri ascoltatori che le ricette hanno ingredienti che potete trovare tutti, basta che non seguite i consigli di Tony. Ovviamente. Però se volete fare proprio la ricetta calabra per tutte queste persone, dovete seguire minuziosamente. Che è un po' crudele. Staccate adesso il capitone, spellate, tagliatelo in mezzo e poi lavatelo bene e urlateci: ah, bastardo, te fotti io. Per forza. All'inizio, perché se un ciurlo è bastardo di tutti, non è buono. Non è buono. No, perché ancora Iddu sputando ovunque. Iddu cavù da corpa. Cioè, dopo che l'ammazzaste è come lucerta, sai che ci muova cura. Che tu una corpa in da faccia, pomma. Sai gli schiaffottone. Non si compra vivo. Sì. No, no. Cioè, non si compra morto. Si compra vivo, l'ammazzi, ci bastardo di tutti. Poi, quindi, chi per tutti e 7 capitoni. Ma siamo 4, quindi andiamo a sbrigare. In una casseruola potrebbero insorgere i capitoni. Ovviamente, la famosa battaglia dei capitoni. Però poi si pigli dei capi su dei capitoni. Allora, poi pigli in una casseruola. La fate insaporire l'olio con la cipolla tritata, che tritare una cipolla di 10 kg non è che certo. E un sticchio d'aglio schiacciato. No, è spicchio. Sempre lo spicchio. No, perché viro a te, ho questo problema, si chiama tiroide pure, che se è una malattia. Sì. Allora, unite i pezzi del capitone e fatele insaporire. Io capace che la gente dicono, bastardo, ci sei tu, perché ancora sono un po' sono vino. Ancora un po' vino. Tutti esatto. I pezzettini di capitone. Bravissimo. Poi bagnate con vino secco e fatelo evaporare quasi completamente. Cosa, il capitone o il vino? Ma secondo te evapora, capitone? Cretino. Non lo so. Comunque, unite. Ma magari qualcuno se lo sa chiedere. Mettete tutta quella polpa di pomodoro, quelle belle, non so quanti chili erano, scordai. Acqua e cito. 400 kg. Peperoncino, Timo, Lauro, Marco, Andrea, tutti che ti ha trovato. Tritate le salate, rincoperchiate e portate alle ebollizione. Sì. Abbassate la fiamma e alzate la gonna. No. E vabbè, sì, fatelo, in effetti. Se siete bene, donne, vabbè, perché poi quando capitone è un momento di felicità, per una ventina di minuti mescolando di tanto in tanto. Cioè, tu mescoli. Poi dici sui rui e all'otto mescola il re. Sei ore. Sei ore di friggete cottura. Le fettine di pane, cioè che poi chi dà una fetta sana, però la mettete. Tutto quell'olio che era detto di comprare serviva per buttate sulla tavolata di pane. Esatto, tutta salute. E disponetele sul fondo e poi portate e ricoprite col prodotto e servetelo immediatamente. Avete capito tutti? Bene, questa è la ricetta di oggi. L'abbiamo detto nel capitone di Tony Scopelliti. Noi passiamo subito al prossimo pezzo. Ci ascoltiamo Pacifico con Malika Yan. L'unica cosa che resta. Intorno mi vedi. Ancora viva la fiamma che trema, prendi ancora fiato e andiamo, non ti spaventare, noi possiamo. Faremo fino in fondo ogni strada chiusa, supereremo gole, fiumi di acqua velenosa. Ogni giorno è un salto, è un posto caro da lasciare. Dormi che tra poco è chiaro e ti dovrò svegliare. Meno male che ci sei ancora, meno male che ci sei tu. Dietro una porta sbarrata a tutti sei riuscito a trovarmi. Meno male che ci sei ancora, meno male che ci sei tu. Per una via sconosciuta agli altri sei riuscita a toccarmi. La notte è ferma adesso, ci aspetta. È un profondissimo mare asciutto in cui perdersi e nuotare. Guarda che sia leggero il peso, poco puoi portare. Lascia ogni fatica, lascia andare. Meno male che ci sei ancora, meno male che ci sei tu. Girava vuoto senza partire, sei riuscito a guidarmi. Meno male che batte ancora, meno male che arrivi tu. Cadendo indietro tra le tue dita, fino a dimenticarmi. Passeremo freddo e vuoto, solo allora si vedrà che brilliamo ancora nel profondo dove il cielo. Meno male che ridi ancora, meno male che sei con me. In ogni ora che va veloce, sei tu la cosa che resta. L'unica cosa che resta. Gotten heavy again, I think it's time to break the pattern. Blame it on return of Saturn. A lonely road to nowhere, that's all we are. I wish I never met you, you done me so wrong. I wish I could forget you, it's been too long. It's been 16 hours and 3 long years, been trying to wipe these memories and dry these tears. I wish I never met you, that's how much I regret you. Down to the wick, now tell me who's gonna kill it. It burns until you snub it out. I wanna run you out. The love's gonna trick you with your ticker, take you down like a brick that's tied to you, pulling you down. Watch. Allora, abbiamo ascoltato, come ha detto correttamente, Sam Sparrow. Wish, quindi senza I, never meet you, che invece è met. Ma Andrea modifica i titoli così. Sì, ma Andrea è bravo, Andrea. No, ma oggi c'ho il babbio. Oggi. Il babbio, spiegalo per chi ci ascolta da fuori. Diciamo la voglia di scherzare fine a se stessa, perché sei un idiota. Era fine a se stessa. Vedi, io oggi... È la finezza estetica. No, nel senso che... Fine a se stessa non l'avevo mai utilizzato per descrivere il babbio. Vero? Davvero. E ti è piaciuta la traduzione? Mi è piaciuta molto. Baciami. Perché fine a se stessa... No, non ti piace. Allora baciami. Fine a se stessa rende proprio la... Ma prende proprio l'idea, no, del, sì, del babbio. Il babbio è qualcosa che viene a se stesso, non vuoi far ridere gli altri. Tu hai il babbio, ridi perché sei felice da solo. Ridi come un idiota. Esatto. Esatto. Comunque, se volete consigliare ad Andrea qualche parola, qualche scioglilingua, mandarlo a quel paese o anche a me, al regista, ricordiamo la pagina Facebook. Mandarmi a lavorare, magari. Anche a lavorare, magari non un altro riesco paese a parlare. Esatto, quindi ricordiamo la pagina facebook.com/londainonda. Ma ricordiamo anche il nostro sito, ovviamente, che, certo, è radiopanorama.eu o punto info. EU per cosa sta? Per Europa. Pazzesco. Non lo sapevi. Punto info? Informazione. Informazione. O informazione, cioè se lo informi, no? Allora, un po' di notizie che la scorsa settimana volevamo darvi e sono sempre attuali. Ad esempio, benzina, no, questa l'abbiamo detta. Credo che ne abbiamo parlato della benzina cara, no? Ormai non c'è, vabbè, più da parlare, no, della benzina. C'è solo da piangere. Allora, scusami, ti interrompo poco prima della, certo, della lettura delle notizie per dirti che probabilmente oggi o mercoledì prossimo verrà a trovarci una persona dall'estero. E, insomma, noi ci siamo, abbiamo fatto un corso, per questo non riesco a parlare bene, abbiamo fatto un corso per interpretare ciò che dirà. Ah. E quindi, che è della Thailandia, il tuo corso è thailandese. E da dove viene? No, rimanete con noi e poi ve lo... Ma neanche il nome? No, non saprete niente. Lo scoprirete più avanti. Ma non potrebbe chiamarci e salutarci magari per darci annuncio? È possibile che verrà. Cioè, ci vediamo mercoledì prossimo, ci sentiamo mercoledì. Rimanete con noi e ne saprete di più. Comunque, vai avanti. Rubate le mappe segrete dell'Eliseo e di altri 9.000 palazzi di parigini. Altri. Ho detto di altri. Vabbè, scusa. Vabbè, erano in una chiavetta USB nell'auto di un imprenditore che doveva cablare l'edificio e il ministero dell'interno. Cioè, praticamente c'è una chiavetta USB in giro per Parigi e c'è la polizia che sta vagamente sudando, perché capirai che contiene praticamente tutte le informazioni nella piccola memoria di massa. Sono archiviate le planimetrie di 9.000 palazzi, ma soprattutto dell'Eliseo. Sono un po' spaventati. Sarà grosso sto pennino. Sì, certo, dire, sì, guarda. Sì, a proposito di pennino grosso, vedo che Andrea ha preso una notizia interessante. Sì, no. La vuoi leggere tu? Io stavo scoppiando a qui più che grosso. Indegno, vabbè, dai. No, riporta la Gazzetta del Sud che un uomo di 82 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Amantea per rapine e lesioni a danni di una prostituta bulgara. L'uomo, sulla statale 18, ha contattato una prostituta con la quale ha avuto un rapporto sessuale. Dopo alcune ore è tornato a casa. Stiamo parlando di un 82enne, ricordo. Dopo alcune ore è tornato dalla stessa ragazza per avere un ulteriore rapporto senza però voler pagare. No, è come quando fai l'offerta e scrivi un club, sì, no? La prima cosa la paghi, sì, tu, esatto, poi la seconda, no, esatto, magari offerta. Sì, sì, sì, sì. Tra i due c'è stato un litigio e l'anziano ha picchiato la ragazza. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato l'uomo. Pare che l'uomo abbia urlato alla ragazza: me la devi dare gratis. Era proprio perentorio, sì, lui la voleva gratis. Molto bello. Ma comunque bello. Io da prostituta per un 82enne che si è dato da fare per ore, come testimone all'articolo, come regalo, dai, gliel'avrei, sì, gliel'avrei anche lasciata un bel cadeau, un bel cadeau. Sì, un bel cadeau, tieni qua, te la, sì, regalo, grazie. Esatto, esatto. Invece non so se avete notato che in estate hanno proliferato in un modo incredibile i quiz, quelli in TV, tipo indovina questo cane se è un dalmata o un barboncino. Sì, belli, veramente, sì, questi servizi ad abbonamento inutili, sì, perché non fatelo, io non voglio, ecco, andare, vogliamo contro, fare campagne, sì, facciamo campagna contro, così domani ci, sì, denunciano tutti quelli che perderanno. Ma ci possono anche denunciare, guarda, perché è scritto piccolo piccolo che vi abbonate un servizio che vi costa 96 milioni di euro al mese. Cioè, sì, neanche annuali, dice, vabbè, sì, faccio un mutuo, dai. Chi è il migliore amico dell'uomo? Premi, scrivi cane o gatto, ma vaffanculo. Sì, no, ma a me piace il dalmata. Qual bello è il colore lì dell'amore? Il rosso o il giallo? Sì, no, no, vabbè, lì potrebbe anche essere il giallo del tradimento, c'entra sempre con l'amore. Dell'amore. La passione magari è rosso. Bravo, parliamo proprio di tradimento, perché una notizia recente che è successa a Miami di due coniugi. Lui porta a casa l'amante e trova la moglie a letto con due uomini. Una notte di tradimenti nella piccola cittadina di Hernando in Florida. Ti piace? Ho detto Hernando. Yeah. Hernando. Meglio di Sam Sparrow. Sì, meglio di Sam Sparrow. Sembrava il fratello cretino di Jack Sparrow. Sam... Forse è quello della maglietta. Si chiama Sam Sparrow. Sam Sparrow. Quello col testone. Io, esatto, mi scuso con Sam Sparrow, ma. Sì, sì. Ma infatti, ma di dov'è Sam Sparrow? È latino. Lo cercheremo. Insomma, questa notizia è di Hernando in Florida, negli Stati Uniti. Due coniugi se ne sono date di santa ragione accusandosi a vicenda di tradimento dopo essersi scoperti nella stessa casa mentre si intrattenevano con altre persone. Che bello. La paradossale vicenda è raccontata in Europa. Ascolta, dal Daily, cioè, Mail. È un continente. Sì. Si chiama Europa. Europa. Perché in UE o è EUA? Non cioè, so. Non è un gioco a UE. UE, a dormire. Però sarebbe stato carino. Europa. Dal Daily Mail, che riporta una notizia del quotidiano Hernando Today, che tra l'altro... Io vorrei abbonarmi all'Hernando Today, ma... Che è fighissimo. Sì, ma solo per il nome. Molto, sì, bello. Sì. Che sa un po' di Fernando Today, sì, no? Fernando Today. Si scopre la storia di Alonso durante la sua vita. Cosa fa durante... settimana. Vabbè, continuo con la notizia. Un uomo di 56 anni torna a casa portandosi dietro una ragazza per avere un rapporto. Sì. Si muove in silenzio per non farsi sentire dalla moglie, che dorme in una delle stanze della casa. Cioè, praticamente lui va a casa con la moglie in casa. Vabbè, già sì, è un genio. Una casa grandissima, in Florida, sì. Immagino saranno stati. Perché in Florida saranno stati. Cioè, capisci, in Florida tutte le case sono floride per Andrea. Non può non essere una casa grande. Immagino, dai. Quando l'uomo è già nudo, sente rumori provenire dalla stanza vicina. Si alza e scopre che la moglie è a letto con due uomini. Anche se l'articolo scopre. Sì, si alza e scopre la moglie a letto, perché è a metà, la vede e se la fa. Esatto. Quindi scopra, è il nuovo verbo. Anche lei aveva organizzato il blitz cercando di non farsi scoprire dal marito, che bellissimo, pensava sarebbe rientrato tardi. Bellissimo. Mentre i due coniugi, entrambi nudi, si picchiavano in casa e sul prato antistante l'abitazione, tutti gli ospiti si sono vestiti e se la sono svignata. Beh, gli ospiti sì, marito e moglie sono stati arrestati per le percosse che si sono reciprocamente ma date. C'è da vedere la foto sul sì sito. La foto è perché lui sembra lei sembra Mara Venier senza trucco. Vara Venier. Cioè Vara Menier è lei che viene come una nave varata per la prima volta. Quindi lei sembra Vara Menier e lui sembra il cugino di Ridge Moss, quello di Beautiful. Io no, devo, che ora devo sfidarmi con Giurato. Sì, sì, secondo me vinci tu. Ma con l'ex giurato. L'hai più sentito Giurato? Non è che passa di qua ogni tanto. Guarda, io ero amico da una vita di Vara Menier. Abbiamo fatto un sacco di viaggi insieme. Fatti abbracciare, bello di papà. Tu ti chiami Andrea Manzario, vero? No, no, guarda, ma come ho potuto sbagliare? Non ci posso veramente credere. Grazie, Luca. Mi intanto ripeti un attimo di chi eri amico? Amico di Vara Menier. Ho capito, meno male. Perché pensavo esistesse. Ma poi come che tu l'hai chiamato? Era già uscito e ti ha risposto. Pazzesco. Sì, guarda, lui viene ogni tanto qui. Allora, no, diciamo che si sono stati arrestati per le percosse, si sono reciprocamente dati. Per l'uomo, l'ulteriore accusa è per la protesta, che ha rifiutato di rivestirsi una volta arrestato e si è presentato in cella completamente nudo prima di essere costretto ad indossare qualcosa. Va bene. Si era abituato. Per tutti quanti all'ascolto, noi dedichiamo un pezzo che invita all'ottimismo. Penso positivo, di Giovanni. No, salutiamo Mara Verrier. Mara Verrier. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo. Non credo nelle divise, né tanto meno negli abiti sacri, che più di una volta furono pronti a benedir massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene, bene, bene, bene. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare questo ma che va, questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che viene che va.